Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono sempre in viaggio per l'Italia, e sto seguendo la vita di Raffaello, le tappe della vita di Raffaello. Abbiamo visitato Urbino, dove Raffaello nacque, abbiamo visitato Perugia e Città di Castello, dove questo artista ha fiorito come giovane artista, e adesso continuiamo il viaggio della sua grande e importante affermazione. Mentre è nel centro Italia, si trova a Siena, è aiutante di Pinturicchio, che allora era un artista famosissimo, nella bellissima decorazione della libreria Piccolomini del Duomo di Siena. Il giovane Raffaello viene a sapere che c'è un'occasione d'oro, cioè di andare a Firenze, perché in quel momento a Firenze si trovano Michelangelo e Leonardo insieme, che stanno facendo una gara artistica, cioè stanno cercando di affrescare una sala di Palazzo Vecchio con la battaglia di Cascina e la battaglia di Anghiari, un ciclo che purtroppo non è mai stato realizzato, ma che attirò l'attenzione appunto degli artisti. Raffaello lascia Siena e corre a Firenze. Firenze sarà una città fondamentale per lui, perché tutte le famiglie, soprattutto le famiglie aristocratiche, non tanto il potere, perché non c'erano i medici in quel periodo, tra l'altro, gli commissionano delle celebri Madonne, oppure dei celeberrimi ritratti. Per esempio i coniugi Agnolo e Maddalena Doni gli commissionano due ritratti meravigliosi che oggi si trovano agli Uffizi. Lì si vede molto bene che Raffaello sta apprendendo altre cose. La vecchia scuola di Perugino, la vecchia scuola di Pinturicchio, la sta abbandonando, guarda Michelangelo, guarda il grande Leonardo, e soprattutto nei ritratti diventa uno straordinario leonardesco. Realizza alcune Madonne, una di queste decide di portarla a Roma. Perché? Perché intanto ha un'occasione di recarsi nel cantiere più importante della cristianità, cioè il Vaticano, dove Giulio II sta rifacendo i propri appartamenti, e qui vedremo la prossima tappa del nostro viaggio. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.